Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, un caro saluto e un benvenuto a tutte. E per tutte intendiamo le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 822 e parleremo di cani, gatti e di famiglie interspecifiche, di veterinari sociali, di cacciatori bracconieri e di poesia, e anche di curiosi animali fossili, diciamo così. Sia la ricetta della settimana che la cura della colonna sonora della puntata sono di Gabriele Palloni. La presenza nelle nostre case di cani e gatti, per chi tenta d'essere amico dell'antispecismo, è una fonte di imbarazzo, spesso taciuta, non affrontata. Lo è non tanto per il rapporto di subordinazione di questi animali rispetto a noi umani, non a caso definiti padroni, quanto per le loro abitudini alimentari. I gatti, come è noto, sono carnivori e per nutrirli nella loro dimensione domestica è necessario sacrificare altri animali, di solito acquistando anonime scatolette di scarti di macellazioni compiute per l'alimentazione umana. Lo stesso vale, sia pure in misura minore, per i cani, che non sono esclusivamente carnivori, come invece i felini. È davvero una bella contraddizione. Dichiararsi amici dell'antispecismo, magari seguire un'alimentazione vegana, e poi tenere in casa cani e gatti frequentando i negozi di cibo per animali, comporta uno scontro con se stessi. Il sentiero della coerenza richiederebbe di non tenere con sé animali domestici, rinunciando a una dimensione di relazione interspecifica cui siamo invece abituati. Molti di noi, attivisti e vegani, continuano, in verità, a tenere cani e gatti con sé, coscienti di compiere un atto ingiusto ogni volta che acquistano una scatoletta, d'essere complici di un sistema, ed è giusto ammettere che si tratta di una patente contraddizione. Se ne potrebbe dedurre, molti lo fanno, che il discorso etico del veganismo in queste condizioni non è più credibile e che quindi tanto vale continuare a mangiare carne e latticini e così via, come sempre. Una possibile replica a questa osservazione, naturalmente, è che fare del proprio meglio, senza raggiungere la completa coerenza di comportamenti, è certo meglio che non fare nulla e cercare alibi per tacitare la propria coscienza nelle mancanze altrui. In aggiunta si può dire che tutti noi viviamo in una società specista, che obbliga gli animali non umani in condizioni di sfruttamento e asservimento, senza riconoscere alle loro vite piena dignità. Ed è perciò impossibile per chiunque, in una società così fatta, tenere una condotta di vita davvero e del tutto antispecista. Lo diceva anche Aldo Capitini a proposito della non violenza. È impossibile, secondo il filosofo perugino, essere del tutto non violenti, ma si può e si deve tendere verso quell'orizzonte. La non violenza, diceva ancora Capitini, non è una lista di prescrizioni, ma semmai una ricerca sempre aperta. E perciò rinunciava lui stesso a definirsi non violento, preferendo qualificarsi come amico e persuaso della non violenza. Detto tutto questo, fanno impressione i dati diffusi da Assalco, l'Associazione Nazionale per le Imprese per l'Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia, a proposito della cosiddetta pet economy, l'economia degli animali domestici. Gli alimenti per cani e gatti, che si confermano il segmento più grande della pet economy, a dicembre 2024 registravano un valore di 3,1 miliardi di euro su base annua. E il valore complessivo del segmento, come lo definiscono gli economisti e gli statistici, è di 4,2 miliardi, una quota imponente dell'economia nazionale. I dati del rapporto Assalco-Zoomark 2024 del resto parlano chiaro. Nelle famiglie italiane vivono quasi 65 milioni di animali da compagnia e oltre 20 milioni sono cani e gatti, con questi ultimi che hanno scavalcato per la prima volta i primi, quasi 12 milioni contro 8-9 milioni. A completare il quadro ci sono 28 milioni di pesci, 12,7 milioni di uccelli, circa 3 milioni di piccoli mammiferi e rettili. Come si vede, la nostra società implica sistemi di vita altamente interspecifici, ma nonostante questo non è riuscita ancora a elaborare un pensiero originale, non prevaricatore, su questa sua condizione. A proposito di relazioni con gli animali domestici, ci piace riferire del primo bilancio, elaborato dall'AV, Lega Antivivisezione, sul proprio servizio di veterinaria sociale, aperto circa un anno fa. Si tratta di un progetto, un ambulatorio, realizzato a Roma in collaborazione con la comunità di Sant'Egidio e rivolto alla cura di cani e gatti che convivono con persone in condizioni di fragilità sociale ed economica. È noto che i costi di cura e mantenimento di un animale domestico possono essere notevoli, specie di fronte all'insorgenza di malattie. E d'altronde la relazione con un piccolo animale può svolgere una funzione di sostegno psicologico e sociale fondamentale, che è quindi bene preservare. Da questa valutazione è nato il progetto. Secondo i dati diffusi dall'AV, in 12 mesi sono state fatte 923 visite veterinarie gratuite, 193 interventi, di cui 136 sterilizzazioni. Sono stati curati in tutto 413 animali, suddivisi fra 272 cani e 141 gatti, per un totale di 259 persone umane aiutate. Secondo Alessandra Ferrari, responsabile per l'AV del settore animali familiari, l'ambulatorio in questo anno ha offerto visite, interventi chirurgici e cure gratuite, garantendo agli animali il diritto alla cura che meritano. Fra le tante storie che si potrebbero raccontare, l'AV riporta quella di Dragan e Lilly. Lui, una persona senza fissa dimora. Lei, una cagnolina anziana e affettuosa. I due sono conosciuti nel quartiere come Lilly e il vagabondo. Lilly è oggi una paziente abituale dell'ambulatorio e Dragan non smette di ringraziare l'AV per il supporto che riceve. L'esperienza di Roma non è l'unica esistente in Italia, ma è certo una delle più strutturate. E l'AV cita iniziative dei comuni di Milano e Modena, o quella ancora in corso, voluta dalla regione Piemonte, per chiedere alle istituzioni pubbliche di giungere a una generale e concreta presa di coscienza, vista l'evidente necessità di garantire il diritto alla cura per tutti, animali e umani, a livello nazionale. È il concetto One Health, una visione a tutto tondo della salute, non concentrata sull'individuo umano, ma sul suo ambiente di vita, compresi dunque gli animali non umani. L'apertura della stagione di caccia ogni anno è un momento di dolore e di orrore, al pensiero di tanti animali selvatici, quasi eroici ai nostri occhi per la loro capacità di sopravvivenza in una società, in un mondo che gli sono avversi, sottoposti a una decimazione che avviene per gioco, per crudele divertimento, che altro non è la caccia. Nonostante i tentativi di descriverla secondo altri canoni, di volta in volta come ineliminabile pratica ancestrale o addirittura come attività utile a mantenere e tutelare gli equilibri ambientali e gli ecosistemi. Questi tentativi di riparare sotto mirabolanti definizioni la pratica concreta e meschina dell'uccisione inutile e spietata di animali liberi la dice lunga su quanto la caccia sia anacronistica e moralmente ripugnante. E poi, in aggiunta al bollettino dello sterminio di uccelli e mammiferi liberi, ogni anno ci sono da fare altre due contabilità. Da un lato i morti e feriti all'interno della specie umana, addebitabili ai cacciatori per i cosiddetti incidenti di caccia, che avvengono secondo una regolarità statistica ormai consolidata, tanto da indurre a parlare di prezzo umano della caccia. E dall'altro lato vanno conteggiate le imprese dei cosiddetti bracconieri, cioè di quei cacciatori che infrangono le regole stabilite a protezione di specie ormai rare e a rischio di estinzione, o comunque bisognose di una specifica protezione. Bisognerebbe entrare nella mente di questi cacciatori per capire quale sia il gusto di uccidere, come è avvenuto nei giorni scorsi in Valtellina, due rari ibis eremiti, animali che non si possono mangiare, della cui uccisione ci si può forse vantare al bar, di fronte ad altri cacciatori, o che forse si possono impagliare o fotografare ed esibire come trofei e come risultato del proprio tronfio e miserabile desiderio di potenza. Comunque sia, riportiamo per esteso la notizia, così come riferita dall'agenzia ANSA, per aggiungere un piccolo finale. Ecco la notizia. Aveva ucciso due esemplari di ibis eremiti, specie rarissima e protetta a livello internazionale, ma i carabinieri forestali delle province di Lecco e Sondrio sono riusciti a risalire a lui grazie a un'attività investigativa avviata nei giorni precedenti. L'operazione è stata eseguita su delega della Procura di Sondrio, diretta da Pietro Basilone. Nel corso della perquisizione personale, domiciliare e veicolare, i militari hanno sequestrato armi, munizioni, dispositivi informatici e il tesserino venatorio, mentre il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per uccisione di animali, furto venatorio e detenzione abusiva d'arma. L'indagine è nata da una segnalazione del referente di un progetto europeo dedicato alla reintroduzione dell'ibis eremita in Europa. Dalle osservazioni delle anomalie presenti sui tracciati GPS apposti sui due animali, spiegano i militari, è stato richiesto il nostro supporto per accertare le condizioni di salute dei volatili. Dopo diverse ricerche, i forestali sono riusciti a rinvenire solo i trasmettitori satellitari appartenenti ai due volatili, con chiari segni di distacco non accidentale. Poi si è giunti all'individuazione del presunto responsabile dell'abbattimento dei due animali. Si tratta di un cacciatore. Questo è il servizio dell'ANSA. Il nostro commento si riferisce alle ultime parole. Si tratta di un cacciatore. Nel linguaggio corrente si pratica una distinzione fra cacciatori e bracconieri, come se si trattasse di due figure del tutto estranee l'una all'altra. Ma dovremmo più precisamente dire che esistono cacciatori e cacciatori bracconieri, e che fra le due categorie, cioè fra chi si muove secondo le leggi e chi le viola, esiste un'osmosi più ampia di quanto si vorrebbe far credere. I cosiddetti bracconieri possiedono armi adatte allo scopo e normalmente le detengono in quanto cacciatori regolarmente iscritti agli appositi registri. Sono appunto cacciatori bracconieri e ogni cacciatore potenzialmente è un bracconiere. Diverso sarebbe se la condizione ordinaria fosse quella del disarmo, del divieto di possedere armi, della messa al bando della caccia. Allora la semplice definizione di bracconiere avrebbe più senso. Oggi tende invece a confondere le idee e a creare una contrapposizione fittizia. Insomma, se il fenomeno è guardato nel suo insieme e non dal punto di vista del singolo cacciatore rispettoso delle leggi, oggi la caccia include ogni anno l'abbattimento di un cospicuo numero di animali protetti. È la legalizzazione della caccia, cioè ad alimentare il bracconaggio. Conoscere il mondo animale, non meno peraltro di quello vegetale, è fonte di continue sorprese. Fa capire quanto siano varie le forme di vita sulla Terra e quanto siano tutte degne d'essere vissute. Compiere queste conoscenze, lasciarsi incuriosire dalla varietà e dalla diversità, è una prima essenziale forma di cura per quella malattia che tutti noi contraiamo da bambini, almeno nelle società occidentali, l'antropocentrismo. L'idea è che la nostra specie sia al centro dell'universo, dominatrice, legittima del mondo. Ci piace in questa chiave segnalare un articolo comparso sul settimanale Il Venerdì. Il titolo dice molto. Ben ritrovata Mrs. Attenborough. E poi Simone Porrevecchio nel testo parla di un piccolo animale. Spinoso scrive come un riccio, con zampe robuste da talpa e un muso allungato simile a quello di un formichiere. Questo animale scava silenziosamente fra radici e terriccio umido in cerca di vermi e insetti. Ogni suo movimento sembra appartenere a un tempo remoto, quasi preistorico. Le femmine depongono un unico uovo alla volta, custodito in una tasca ventrale come in un piccolo scrigno fino alla schiusa. Il neonato, fragile e privo di spine, viene poi nutrito con gocce di latte che filtrano direttamente dalla pelle materna, in assenza di veri e propri capezzoli. Questo incredibile animale si chiama Echidna dal muso lungo di Attenborough, Zaglossus attenboroughi, nella nomenclatura scientifica in latino. E il suo nome contiene una dedica al grande naturalista e documentarista britannico David Attenborough, quasi centenario. È un mammifero oviparo che per 60 anni è stato dato per scomparso. La sua presenza ora è stata invece documentata da un gruppo di ricercatori sui monti Ciclopi della provincia indonesiana di Papua, attraverso un sistema di fototrappole piazzate nella foresta. E si unisce quindi agli altri, pochissimi, animali a vivere nella condizione d'essere mammiferi che depongono uova. Oltre all'echidna dal muso lungo di Attenborough, ci sono in questa categoria l'ornitorinco australiano, l'echidna dal becco corto e altre due specie dal becco lungo. Scrive Porrovecchio che si tratta di un autentico fossile vivente, ultimo rappresentante di una linea evolutiva che si è separata dagli altri mammiferi circa 200 milioni di anni fa. È uno dei tanti prodigi della vita animale sul pianeta Terra. Nello spirito della nostra trasmissione riservare uno spazio anche cospicuo alla produzione culturale e alla riflessione filosofica. Il cambiamento di prospettiva che auspichiamo è spesso anticipato e immaginato proprio da artisti e pensatori che sanno muoversi, si può dire che è la loro missione, sul terreno dell'utopia e del cambiamento, l'uno e l'altra uniti in un nesso non scindibile. Stavolta abbiamo chiesto proprio a un pensatore fra i maggiori dell'antispecismo italiano, Massimo Filippi, autore da ultimo del docu-romanzo Laica forse, pubblicato da Ortica, di cui abbiamo parlato poche settimane fa, di recensire la più recente raccolta poetica di Teodora Mastrototaro, poeta, artista, performer, amica dell'antispecismo. Il suo libro ha un titolo lungo ed esplicativo. Le mucche, se non le mungi, esplodono di gioia. Crudeltà sugli animali, un inventario. Ed è pubblicato da Marco Saia, editore. Teodora Mastrototaro, poetessa antispecista, giunge alla sua terza raccolta di versi a favore degli animali. Qualche anno fa uscirono Legati maiali, dove la poetessa si confrontava direttamente con la condizione degli animali negli allevamenti. Successivamente è uscito Zoologia abitativa, dove la poetessa ha proseguito il suo analisi dei rapporti più intimi con gli animali. E infine, recentissimamente, arricchita da una impreziosita, da una prefazione di Bianca Nogara Notariani e dall'illustrazione di Alessandra Antonini, è uscito la nuova silloge poetica che si intitola Le mucche, se non le mungi, esplodono di gioia, crudeltà sugli animali, un inventario. È una raccolta forte, potente, disturbante, non a caso si apre con un disclaimer, poesia disclaimer all'inizio, per non urtare la sensibilità, al cancello d'entrata scriviamo immagini forti e con un titolo che ci ribadisce un concetto fondamentale. Da un lato l'idea che gli allevatori facciano qualcosa di buono per le mucche, mungendole. In realtà quello che mi sembra sottolinei la poetessa è che non c'è nulla di peggio che far soffrire non solo chi può soffrire, ma chi altrimenti potrebbe gioire. E le poesie di questa raccolta affrontano una serie di eventi, come recita il sottotitolo, di crudeltà nei confronti degli animali, e Teodora Mastrototaro ci fornisce un inventario, appunto come recita sempre il sottotitolo, di storie prese in tempi, in spazi, in situazioni sociali, con specie differenti, in cui in maniera istituzionalizzata o meno c'è stata violenza estrema nei confronti degli animali. Andiamo dalla violenza su animali singoli come la cagnolina lapidata, avere occhi di pietra per vedere come frana una montagna mentre tremi come foglia, agli allevamenti industriali, alla follia degli allevamenti industriali, dove ogni piano è occupato da 20.000 maiali, sempre ripetuti, come schiere di doppioni per replicare fin dall'inizio le uccisioni. Lo schema poetico è, diciamo così, tripartito. C'è una prima parte didascalica che racconta brevissimamente la storia dell'animale considerato, i versi centrali, potenti, come dicevamo, e disturbanti, e dei versi finali, in almeno alcune poesie, che da un lato vanno a sottolineare la condizione di miliardi di animali non umani, immobili a curare il corpo affinché il restare diventi vivere, oppure a esprimere la betise umana, come ad esempio nel transennato il cinghiale come fosse una buca, attenzione a non caderci, potreste morire. Quindi prosegue la ricerca teorica, poetica di Teodora Mastrototaro con questa terza raccolta di poesie, edita recentemente da Marco Saia. Ho chiesto a Gabriele Palloni di dedicare la ricetta della settimana ai due ibis eremiti caduti per gli spari di un cacciatore bracconiere in Valtellina. E proprio alla Valtellina è dedicata la ricetta di Gabriele, che ricordiamo è autore di numerosi libri, l'ultimo dei quali è Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Dedichiamo a Zoppo e Zaz, uccisi dalla crudeltà umana, e non commento altro per non essere bippato, la ricetta di oggi, che è tipica di quella terra che li ha così malamente accolti, perché quello che vorremmo è un benvenuto senza crudeltà. Gli ingredienti per 4 persone per i quichet sono 300 g di farina di grano saraceno, 150 g di farina tipo 0, 100 ml di latte di soia, 50 g di silken tofu, 20 g di amido di tapioca, un cucchiaino di succo di limone, un pizzico di curcuma in polvere, un cucchiaio di lievito alimentare, un bicchierino di grappa, acqua, olio extravergine di oliva e sale. Iniziate preparando il formaggio vegetale filante. Nel bicchiere del mixer unite il latte di soia, il silken tofu, l'amido di tapioca, il lievito alimentare, il succo di limone, la curcuma, un cucchiaio di olio extravergine e del sale. Omogeneizzate il tutto fino ad avere una crema liscia e mettetela sul fuoco a fiamma bassa mescolando con una frusta. Quando il composto inizierà ad addensare e filare, fate cuocere ancora un minuto e togliete dal fuoco. A parte preparate una pastella stemperando le due farine con la grappa e acqua. Aggiungete il sale e lavorate con la frusta fino ad ottenere un impasto omogeneo non troppo liquido. Scaldate un cucchiaio di olio in una padella di ferro. Quando sarà ben calda, versate un cucchiaio di pastella in modo da formare delle frittelle di circa 5 cm di diametro. Mettete al centro di ogni frittella un cucchiaio di formaggio vegetale filante e infine coprite quest'ultimo con un altro cucchiaio di pastella. Fate dorare da entrambe le parti e servite caldi. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Gianluca Masala, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ha ha ha ha!